Intanto, direttore, lei non voleva parlare perché diceva tanto è tutto sul programma. Allora io mi attengo alle sue direttive, assolutamente. Certo che faremo qualche citazione, ci mancherebbe, però usciamo un po' da questa schematicità e parliamo di filosofia e innovazione invece. Perché è stato un po' anche un'idea per presentare un sguardo futuro a quello che è questa nostra chiacchierata assieme. Iniziamo dalle Moline, però. Con che approccio inizierà questo percorso? Adesso è un piccolo antipasto, abbiamo soprattutto tre gruppi di artisti. Matilde Vigna, che è una giovane attrice che da poco ha cominciato a scrivere, presenterà un suo testo, e appena vinto ha avuto la menzione speciale al Premio Duse, che fa sempre piacere. Era nel gruppo degli attori di Santa Estasi, è stata una mia allieva, una bella testa pensante. Poi abbiamo Alessandro Berti, e sia con Matilde che con Alessandro inizieremo un percorso triennale legato alla loro scrittura. Alessandro presenta l'intera trilogia, le due parti che già aveva creato sono realizzate al Teatro delle Moline, poi invece nella Sala Salmon si vedrà il suo nuovo spettacolo. E poi Arte e Salute, che presenterà La Classe, tratta dalla Classe Morte di Tadeusz Kantor, che, come dicevo nella conferenza, è uno spettacolo che insomma, in Polonia era nato proprio in uno spazio simile a quello delle Moline, quindi uno spazio sperimentale. Certo, ho notato anche una sua concretezza, questa è un'impressione personale, oltre che un approccio artistico chiaramente da sottolineare. Ha parlato in progetti futuri, si parla sempre, no, del teatro della città, la città vicina al teatro e viceversa. Lei ha avuto quest'idea, apriamo, ma proprio fisicamente, quello che può essere il teatro per possibilità anche che non siano di palcoscenico. Sì, assolutamente, il teatro appartiene ai cittadini e quindi noi abbiamo un posto molto bello che va condiviso, è un luogo dove si possono vedere gli spettacoli, ma si può stare anche qui a studiare, a leggere, a incontrare gli amici e le amiche. Come avete visto, il chiostro è stato aperto per lungo tempo, fin quando è stato possibile per via del tempo, del clima, e adesso vorrei che quella porta da via Indipendenza rimanesse sempre aperta e che la gente potesse entrare dentro questo nostro luogo e non lo pensasse come un luogo inaccessibile. Non solo a parole, insomma. Non solo a parole, no, avere la classica porta aperta, no? Come si usava nei paesi tanti anni fa, in modo che poi, insomma, e che trovino un luogo accogliente, per cui che non li respinga. Molto spesso non si entra a teatro perché appunto si pensa di entrare in un luogo difficile, in un luogo ostico. Invece già avere una porta aperta, bersi un bicchiere di vino, bersi un caffè, oppure stare qui a studiare con la connessione, insomma. Invita. Secondo me potrebbe. Facilita. Potrebbe. Io la ringrazio tanto per il suo tempo e le auguro buon lavoro. Grazie a lei, a presto.